Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Tutti siamo, o perlomeno siamo stati nell'adolescenza, fan di qualcuno. Avere un idolo da venerare è qualcosa che unisce le generazioni e che soprattutto va oltre alla logica, perché è come una fede. Per esempio, ci sono professionisti insospettabili e composti padri di famiglia che alla notizia del concerto di Bruce Springsteen in un attimo si trasformano, tirano fuori dall'armadio bandane dal sapore retro e magliette con la faccia del boss. Le ragazze, a dirla tutta, hanno una predisposizione speciale al feticcio. Diari straripanti di testi di canzoni, poster che tappezzano camerette, in cui stare ore al telefono, e la ricerca ossessiva di autografi e fotografie con il proprio mito, per il quale sono disposti a percorrere centinaia di chilometri. È sempre stato così. Passa il tempo e passano le mode, ma innamorarsi dei divi impossibili è un'esperienza in qualche modo universale. Se le teenager del 2000 rincorrono i concorrenti dei reality e le trentenni di oggi sognavano ad occhi aperti Take That, negli anni 80 le loro sorelle maggiori non volevano altro che sposare Simon Le Bon. È inutile che insisti, io preferisco John. Cliccia, ma guarda quanto è bello, neanche un pelo. Oddio, svengo. Dai, Rossana, non svenire che mi devi pagare l'hamburger. E qui Simon com'è? Non mi piace, ha un dente un po' all'ingiù, sembra Simon Le Brut. Rossana, quanto sei pignola quando si tratta del mio. Guardalo qua, sembra un arcangelo. Sì. Rossana, che stai nascondendo? Fai vedere. L'ho comprata perché tu non la vedessi. Capirai per quello che mi importa. Guarda, ha la faccia da truzza, il culo per terra e i piedi da papera. E gli occhi da vorso. Quello delle groupie è un fenomeno nato negli anni 60, sull'onda della rivoluzione sessuale, che vede giovani ragazze, di solito di bell'aspetto, accompagnare le rockstar del loro cuore per gran parte delle tournée, supportando con entusiasmo la loro vita sregolata ed eccitante, fino a diventarne muse e amanti. La vera groupie si gode il concerto saltando e ballando nelle prime file, ma non è una fan come le altre, perché ha un rapporto privilegiato con la star, tanto da far parte del suo entourage fisso. Le groupie sono figlie dello spirito ribelle e libertario del tempo, giovani donne emancipate che vogliono tutto e subito. Il mondo delle rockstar, capace di farle vibrare con la loro musica. Ecco una citazione di Pamela DeBar, la regina delle groupie, nell'introduzione del suo libro Let's Spend the Night Together. Come diamine facevano a sapere cosa mi girava per la testa e mi pulsava nelle vene? Come avevano fatto a scrivere proprio quella canzone che mi faceva sentire così selvaggiamente viva? Volevo essere parte di quel segreto cosmico. Volevo avvicinarmi a tal punto alla musica da poterla toccare e niente sarebbe riuscito a fermarmi. Il backstage ha un fascino tutto particolare e sono molte le groupie diventate celebri per essere entrate nei cuori e nei letti dei loro idoli. Tura Satana, ballerina di Burlesque e primo travolgente amore di Elvis Presley, ha insegnato ad Elvis le mosse di bacino che hanno fatto impazzire generazioni di fan. Lui le ha chiesto addirittura di sposarlo e lei ha detto di no, ma tenendosi l'anello. Cinzia Plestercaster di Chicago è diventata celebre per la collezione di calchi in gesso fatti sulle parti intime delle sue rockstar preferite, mentre Babe Buell, con Steve Tyler degli Aerosmith, ha fatto una figlia, l'attrice Liv Tyler. Catherine James, musa di Bob Dylan e Jackson Browne, è stata anche amante di Mick Jagger e amica di lunga data di Eric Clapton. Questi ultimi, inoltre, si sono divisi le grazie di una giovane Carla Bruni. E Lori Lightning, la Lolita di Los Angeles, a soli 14 anni, ha conquistato Jimmy Page dei Led Zeppelin. A muovere queste ragazze non è, o perlomeno non soltanto, la voglia di esibire dei trofei, ma soprattutto il brivido di essere protagoniste. Come racconta il film Almost Famous, un'istantanea di quel periodo, è la musica che sta al centro di tutto. La musica, cioè la vera musica, non solo il rock and roll, ti sceglie. È lì che vive nella tua macchina o quando sei solo con la tua cuffia. Vedi ponti immensi e panoramici, hai in testa cori angelici. È un luogo assolutamente diverso dall'immenso e benevolo grembo dell'America. È davvero un onore avere di nuovo qui a San Diego per qualche giorno il più grande critico rock del mondo, nonché direttore della rivista Cream, Lester Banks. Nothing's lost. at such a cost. Le groupie come fenomeno nascono negli anni 60, ma ci sono state ragazze avanti sui tempi che hanno cominciato un po' prima. Lo sa bene il nostro protagonista di oggi, che ha una fan molto speciale e deve moltissimo. Lui si chiama Ike Turner. Ike Turner. E oggi a Destini Incrociati vi vogliamo raccontare la sua storia dal sapore rhythm and blues. Ike Turner, classe 1931, nasce e cresce lungo il delta del Mississippi, precisamente a Clarksdale, una cittadina conosciuta come l'allacciatura dorata della cintura del cotone, dove la comunità afroamericana e i bianchi possidenti delle piantagioni convivono con immigrati libanesi, italiani, ebrei e cinesi. Suo padre è un pastore battista e sua madre aiuta l'economia domestica facendo piccole riparazioni da sarta. Ma i soldi, comunque, sembrano non bastare mai. D'altra parte, all'inizio degli anni 30 non è passato molto tempo dal giovedì nero di Wall Street e gli Stati Uniti si stanno rialzando molto lentamente da una crisi che li ha messi in ginocchio. La disoccupazione è raddoppiata, la produzione di automobili ridotta al minimo e il potere d'acquisto è ormai bassissimo. Ike, come molti bambini, è costretto a lavorare e viene assunto in un grande albergo. Dovevo occuparmi di mandare su e giù l'ascensore all'Alcazar. Non appena avevo un secondo di tempo, correvo al secondo piano dove c'era una piccola stazione radio. Era eccitante vedere tutti quei pulsanti, sentire la musica che usciva. Sembrava quasi una magia. Mi mettevo dietro al vetro e guardavo il ragazzo che metteva i dischi. Era il mio sogno. Avrei voluto farlo io. Un giorno il ragazzo della radio gli dice di entrare in cabina. Ike si guarda intorno per sincerarsi che quel gesto con la mano sia rivolto proprio a lui. Non c'è nessuno nei paraggi. Così fa un bel respiro e con il cuore che batte a grande velocità mette mano sulla maniglia. In preda all'emozione lascia la porta aperta e il ragazzo della radio, così lo chiama Ike, lo prega di chiuderla. Poi lo fa sedere e inizia a mostrargli come funzionano i bottoni. Dopo mezz'ora Ike sa già cosa fare. Dopo un'ora il ragazzo della radio è in strada a bere un caffè, fidandosi ciecamente di quel ragazzino di 8 anni che ha già perfettamente la situazione sotto controllo, tanto che in quella cabina sembra esserci nato. Avevo solo 8 anni ed è così che è cominciata la mia storia con la musica. Ike si divide tra la radio, nella quale fa il DJ, e la sua musica, che impara ascoltando i grandi miti blues del periodo. Ma l'incontro più importante è quello con Pine Top Perkins, del quale si innamora artisticamente fin dalla prima volta che lo sente suonare il piano. Quando Perkins gli insegnerà di persona il boogie-woogie, più adatto per ballare che per emozionarsi, per lui sarà un momento davvero indimenticabile. Mi ricordo perfettamente com'era andata. Ero andato da lui a complimentarmi dopo un suo concerto e gli avevo detto che anch'io suonavo e avrei voluto fare il boogie-woogie come lui. Lui mi aveva detto di sedermi al suo piano e di cominciare con una mano. Poi si era seduto vicino a me e aveva iniziato a suonare con l'altra. Gli stavo dietro e in quel momento stavo provando un'emozione che ancora oggi non riesco a spiegare. Il boogie-woogie, di origine afroamericana, ha il momento di suo massimo splendore negli anni 40, quando diventa per eccellenza la musica con cui scatenarsi spogliandosi di ogni inibizione. Lo scopo per cui nasce è proprio quello di intrattenere la gente nei locali che si trovano negli accampamenti dei lavoratori, per esempio nei pressi dei cantieri delle linee ferroviarie. Anzi, il pianista a volte c'è perfino sui treni, pronto a distrarre gli operai dalle fatiche quotidiane. Ike, per natura aperto a qualsiasi novità, è entusiasta del boogie-woogie e adora la sera girare di locale in locale. Fa divertire i clienti e a fine serata il proprietario gli mette in mano quel gruzzoletto che gli permette di campare solo con la sua musica. Sono stati anni bellissimi. Dopo la Grande Depressione, l'America aveva voglia di rinascere. Un po' di pensieri se ne erano andati e nell'aria rimaneva soprattutto tanta voglia di divertirsi. Ma l'atmosfera che si crea tra i membri di una band è tutta un'altra cosa rispetto a suonare per conto proprio. Le chiacchiere sul furgone pieno di strumenti durante i lunghi viaggi per le strade d'America, gli aneddoti sui camerini che spesso non hanno neanche un bagno, le bevute dopo i live per celebrare i concerti che sono andati bene e per consolarsi di quelli andati male. Ike fonda con molta speranza e una punta di presunzione i Kings of Rhythm. È con loro che più o meno nell'incoscienza farà il primo passo verso la grande rivoluzione della musica. ...1951, Memphis, Tennessee. Al Sun Studio, aperto solo l'anno prima, numero 706 di Union Avenue da Sam Phillips, manager e talent scout lungimirante, ancora non sanno che tra pochi mesi scopriranno un giovane Elvis Presley, universalmente riconosciuto come il re del rock and roll. Nel frattempo aspettano Jackie Braston, cantante e sassofonista, per registrare una canzone scritta da Turner, dal titolo Rocket 88. Ike non solo ha creato un testo dal contenuto totalmente innovativo rispetto alle hit dell'epoca, ma ha parlato ai giovani attraverso un suono del tutto inedito, quella chitarra distorta che diventerà il simbolo del futuro e che, casuale come molte scoperte, è partita da un incidente occorso a un amplificatore che ha prodotto quel suono rozzo e potente. Ne esce una canzone irresistibile. Io non avevo ancora compiuto 20 anni e i giovani come me per la prima volta nella storia cominciavano a contare qualcosa. Ho scritto quelle parole sul desiderio di avere una macchina, semplicemente perché era davvero quello che a noi stava a cuore. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! Quella degli anni 50 è un'America che sta cambiando radicalmente. Sono soprattutto i giovani che si fanno sentire a gran voce, che rivendicano un ruolo indipendente all'interno della società. Ascoltano il rock and roll, vanno in motocicletta, guardano i film con James Dean e Marlon Brando e proprio come in Gioventù bruciata e Il selvaggio, si ribellano allo stile di vita borghese delle loro famiglie. Tu non sei altro che una cameriera. Perché tuo padre è poliziotto, credi di potermi dire quello che devo fare per caso? Nessuno me l'ha mai detto a me, sai? Guarda che se mi arrabbio spacco tutto quello che c'è qui senza pensarci due volte, ti avverto. Ehi, birra! Che facciamo, Johnny? Partiamo? Non ancora. Le ragazze portano ampie gonne a ruota che segnano vite dalla circonferenza strettissima e sono combattute tra il ruolo tradizionale della casalinga tutta marito, figli e biscotti fatti in casa, come gli è stato insegnato dalle loro madri, e la voglia di emanciparsi attraverso l'università e il lavoro, per troppo tempo appannaggio dei coetanei maschi. Ai ragazzi questo slancio libertino non dispiace affatto. Vogliono divertirsi e trasgredire. Si infilano i jeans, una giacca di pelle e le portano al drive-in, con la speranza di avere almeno un bacio mentre il film scorre senza che nessuno lo guardi per davvero. Nei bar spuntano i mitici jukebox. Basta una monetina e si possono sentire le hit del momento. E questo il sogno di Ike Turner: diventare famoso con i suoi Kings of Rhythm. Le prove quotidiane sono lunghe e difficili, ore passate in stanze buie senza nemmeno una finestra, al freddo d'inverno e al caldo d'estate, con un'umidità palpabile capace perfino di influenzare il suono degli strumenti. Ike e i suoi ragazzi hanno pochi soldi e si aiutano l'un l'altro come possono, investendo il loro talento con la speranza che il futuro riservi anche a loro qualche sorpresa. E i risultati, infatti, valgono i sacrifici. Il gruppo, dopo che Ike ha visto sfumare il successo quando Jackie Braston ha inciso la sua Rocket 88 senza nemmeno citarlo tra i credits, comincia finalmente a fare concerti. Alcuni leggendari autori blues come Howlin' Wolf, Otis Rush, Buddy Guy e Sonny Boy Williamson II volevano proprio noi. Li seguivamo in giro per l'America ed era bellissimo stare sul palco a suonare con loro, sentire il calore del pubblico. Era esattamente quello che stavamo cercando e prima o poi ce l'avremmo fatta, anche con le nostre gambe. Me lo sentivo. Ike e i Kings of Rhythm sono piuttosto celebri a livello locale, soprattutto nella zona di St. Louis, stato del Missouri. Qui li chiamano per suonare anche da soli, senza necessariamente il supporto di qualche cantante importante, e Ike comincia a far cadere decine di donne ai suoi piedi. I giornali del posto e le piccole emittenti televisive li vogliono intervistare. Sono interessati alla loro carriera, a quello che hanno fatto e a quello che faranno. Ma il successo della band finisce qui. E così, abituato a rimboccarsi le maniche quando serve, come gli è stato insegnato fin da bambino, Ike si reinventa e inizia il suo percorso come talent scout per alcune case discografiche, tra cui proprio la Sun Records di Sam Phillips. Avevo molto intuito, riuscivo a capire subito chi avrebbe fatto strada e chi no. La cosa strana è che evidentemente ci riuscivo solo con gli altri e la regola non valeva invece per me stesso e la band. Ero sicuro che saremmo stati in grado di sfondare. Mi sembrava che avessimo tutte le carte in regola. Eravamo bravi, preparati e il sacrificio non ci spaventava. Che cosa ci mancava allora? Ike non si immagina che quello che gli manca è proprio lì, a portata di mano, nella romantica e malinconica St. Louis dal sapore blues, la città che Judy Garland canta nel film Incontriamoci a St. Louis, la città dal cui ventre sono nati molti personaggi del Novecento capaci di farsi strada nel mondo, la ballerina Josephine Baker, diventata celebre per il suo gonnellino di banane, il poeta premio Nobel Thomas Stearns Eliot, il fotografo Walker Evans e più tardi l'attore Kevin Klein. Ma soprattutto numerosi musicisti, tra gli altri Chuck Berry e il trombettista jazz Miles Davis. A St. Louis si respira un'atmosfera magica e struggente che si traduce in ogni disciplina artistica. E proprio qui Ike cerca continuamente un nuovo suono, ma non può sapere che l'ingrediente che rende perfetta la ricetta è qualcos'altro. Oltre a cantare e a suonare il piano, pizzica le corde della sua chitarra così nervosamente che la durezza diventa una sua cifra stilistica. Usa continuamente per la sua Fender Stratocaster quel piccolo aggeggio chiamato Whammy Bar, che gli permette di cambiare la tensione delle corde e aggiungere vibrazioni e creare effetti inaspettati. Nel jazz e nel blues questa tecnica è molto usata. Mike, oltre che un virtuoso, è un grande sperimentatore che ama mettersi alla prova con le novità. La fama mi interessava, certo, sono ipocriti gli artisti che dichiarano di non curarsi di quello che pensa il pubblico, ma più di tutto mi dava tormento il fatto di non essere capito fino in fondo. Nella formazione dei Kings of Rhythm non ci sono donne, ma nessuno, tantomeno ad Ike, viene in mente che una presenza femminile potrebbe essere la svolta. Siamo negli anni 50 e le ragazze si stanno emancipando, stanno cercando di trovare anche loro, come i coetanei maschi, un ruolo nella società. Ma la parità è ancora lontana. Eppure c'è una giovane di provincia che preferisce cantare con una voce rabbiosa piuttosto che starsene in cucina con un grembiule à pois a sfornare muffin al cioccolato. Ike ancora non lo sa, ma questa donna cambierà la sua vita per sempre. Tra poco, a Destini Incrociati. Heartbroken worry since the day you said goodbye. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nei primi anni 50, St. Louis, stato del Missouri, dove un giovane Ike Turner sta cercando di diventare famoso con la sua band, i Kings of Rhythm. Ha molto talento, ma il destino sembra mettergli continuamente i bastoni tra le ruote. Un episodio su tutti? Quando ha scritto e musicato Rocket 88, considerata dagli storici la prima canzone rock and roll, ma il cui merito è andato a Jackie Braston, che l'ha incisa senza nemmeno citarlo nei credits. Allora non potevo sapere la portata di quella canzone. Di certo non avevo in mente di rivoluzionare la musica mondiale. Eppure ero rimasto molto deluso. Avevo proprio il sentore di non essere stato capito. Ike canta e suona piano e chitarra. Ha uno stile tutto suo che lo rende davvero speciale. Per questo non si capacita di non riuscire a sfondare e di rimanere un artista apprezzato solo a livello locale, nei malinconici locali blues del sud. Ogni tanto questo dolore lo porta a bere. Anche quando un concerto va bene e come d'abitudine si festeggia, spesso la situazione degenera e la bevuta si trasforma in una sbornia che ha il gusto amaro della depressione. Fino a quando avviene l'incontro destinato a cambiare per sempre la sua vita. East St. Louis, 1956. Il quartiere è malfamato, non certo per famiglie. Ma è qui, tra bische e bordelli, che fioriscono i locali dove si suonano il jazz e il rock and roll. Sul piccolo palco del Club Manhattan, dove le sedie sono vicinissime le une alle altre e una nuvola di fumo avvolge qualsiasi cosa, i Kings of Rhythm stanno suonando il loro repertorio soul per gli avventori del locale, sperando, con la paga del proprietario e qualche mancia, di portarsi a casa un gruzzoletto che gli consenta di sopravvivere per un po'. In prima fila c'è un gruppo di giovani, tra i quali spicca una ragazza che avrà all'incirca 17 anni. Fisico statuario, viso perfetto e lunghi capelli castani, si comporta come una vera e propria antesignana delle gruppi. Lei è sfrenata, non riesce a contenersi. Tutto il suo corpo vibra al ritmo incalzante dello swing, mentre, con la voce, ripete tutte le strofe che ha imparato a memoria sentendole dai dischi di papà. Si chiama Anna May Bullock, ma presto da tutti sarà conosciuta come Tina Turner. Tina Turner. Ladies and gentlemen, Tina Turner. Anna May nasce nel 1939 nella fattoria di una piccola cittadina del Tennessee, dove suo padre, un pastore, la fa cantare nel coro della chiesa fin da bambina. Credo che sia il ricordo più forte della mia infanzia. Era bellissimo quando la domenica la mamma mi vestiva tutta elegante, mi pettinava per bene, mi infilava il cappotto rosso e andavamo in chiesa. Erano così orgogliosi lei e papà di vedermi cantare tra gli altri bambini del coro. Mamma e papà sono innamoratissimi, o almeno così fanno credere, per non turbare i benpensanti. Non è difficile vederli ballare abbracciati nella piazza del paese durante le sere d'estate in cui, per sconfiggere la noia della provincia, arriva qualche orchestrina jazz. Ma in casa l'atmosfera è pesantissima. Anna e sua sorella Eileen respirano serenità solo dai nonni, tanto che quando i genitori decidono di separarsi, si sentono quasi sollevate. Eileen si trasferisce a St. Louis con la mamma, mentre Anna rimane con papà, che in poco tempo si risposa. Ma viene accoltellato, proprio sotto lo sguardo di Anna, dalla sua nuova moglie. È così che la mamma, visibilmente controvoglia, torna a casa e riparte per St. Louis con tutte e due le figlie. Certo è che l'affetto manca completamente. Se Eileen si chiude in se stessa e fatica a parlare con chiunque, con problemi di timidezza che si porterà dietro per sempre, Anna May, al contrario, tira fuori tutta la grinta che tra poco le servirà per trasformarsi in Tina Turner, la diva dell'R&B. Anche Anna May, come l'orgogliosa Mary della canzone, ondeggia lungo il fiume quando arriva sulle sponde del Mississippi. La trascina la musica del posto, quel crogiolo di suoni di origine afroamericana che ha generato il blues, il soul e l'R&B. Insomma, quella che viene definita musica black, la colonna sonora di uno stato nel quale, come racconta il film Mississippi Burning di Alan Parker, il conflitto tra neri e bianchi è quotidiano. Loro vogliono che dica: non va dimenticato che anche due ragazzi bianchi sono morti aiutando i negri ad aiutare se stessi. Loro vogliono che dica: piangiamo con le madri di quei due ragazzi bianchi. Ma lo Stato del Mississippi non concederà che quei due ragazzi bianchi siano sepolti nello stesso cimitero di questo ragazzo nero. Anna May è una bella ragazza. Ha lunghi capelli scuri e un viso dai tratti marcati che per strada fa voltare i ragazzi. Mi facevo portare in giro dai ragazzi più grandi, amici di mia sorella. Così mia madre era tranquilla perché stavo con loro e io potevo andare nei posti dove non sarei mai andata da sola. E così, serata dopo serata, impara a conoscere locali e musicisti. Con loro brinda come una vera gruppi degli anni 60, ma non c'è niente di più lontano da lei dall'idea di sbandierare dei trofei. In testa ha solo la musica. Ormai canta soltanto nel silenzio della cameretta che condivide con la sua sorella Eileen, da quando ha lasciato papà e il coro della sua chiesa. Eppure sente che la sua voce potrebbe portarla lontano, si rende conto di avere un timbro particolare, un tono roco che tocca note impossibili. Di giorno, alla Summer High School, non riesce a stare concentrata su quello che spiegano gli insegnanti. Sotto il banco tiene sempre dei vecchi spartiti che le ha regalato suo padre e mentre i compagni prendono appunti, lei si isola nel suo mondo di sogni. Qualche volta mi mettevano in punizione, ma per fortuna me la cavavo sempre, perché a casa avevo studiato bene. Erano i professori che mi annoiavano con le loro voci monotone. Io volevo soltanto salire su un palco e cantare. Anna pensa alla sera, quando lei e sua sorella si prepareranno, aspetteranno che gli amici di Aline le passino a prendere con le loro macchine dalle tinte pastello e andranno in centro a sentire qualche nuovo gruppo. Il suo club preferito è il Manhattan, scuro, piccolo, fumoso. È qui che una notte il suo destino cambia per sempre. Me ne stavo lì un po' annoiata. Ike ha fatto il suo ingresso nella sala e in qualche modo se ne avvertiva la presenza. Non era il mio tipo però, tutt'altro. Quando è stato più vicino ho pensato, Dio, quanto è brutto. Ma aveva un certo non so che. Poi è montato sul palco e ha afferrato la chitarra. Ha pizzicato un accordo e ho pensato, Gesù, ma senti come suona questo tizio. E la sala ha cominciato a ondeggiare. La pista era gremita di gente che ballava e sudava al ritmo di quella musica favolosa. E io continuavo a starmene seduta, stupefatta, lo sguardo fisso su Ike Turner. Pensavo, Dio, mi domando perché piace tanto alle donne, è proprio brutto. Però continuavo ad ascoltarlo e guardarlo. Sono caduta quasi in trance semplicemente osservandolo. Anna, contagiata da quella musica con cui è impossibile stare fermi, non può più fare a meno delle esibizioni dei Kings of Rhythm. Li segue ovunque. Vuole salire sul palco con loro e dimostrare che cosa sa fare. Una sera, mentre Ike sta suonando al piano You Know I Love You di B.B. King, Gene Washington, il batterista del gruppo, si avvicina ad Aline, la sorella di Anna May, e le avvicina il microfono per farla cantare. Aline, imbarazzata, scrolla la testa e si nasconde. Anna, invece, non ci pensa due volte e lascia tutti senza parole. Ike smette di suonare, scende dal palco e la solleva di peso. Poi le chiede che altri pezzi conosca. È l'inizio dell'avventura. Ike e Anna May diventano inseparabili. È lui che le compra i primi vestiti di scena, lustrini di tutti i colori, calze con la riga, guanti lunghi, anelli e persino una stola di pelliccia. Lei incomincia a sentirsi una stella. Ogni volta che lui chiama sul palco la sua Little Anne, assapora il gusto del successo. Intanto Ike, eterno Don Giovanni, dalla scorza ruvida che cela una profonda sensibilità, anche se ancora non riesce a dirglielo, si sta poco a poco innamorando di lei. La sua risata e il suo modo di muoversi. Mi piaceva tutto quello che faceva. Forse anche per questo, in modo un po' infantile, le rispondevo male. Volevo che anche lei mi notasse. Ho passato settimane ad aspettare il momento giusto per dirglielo. Ma il destino, si sa, a volte prende strade tortuose. Anna ha una relazione con Raymond Hill, un membro della band che fa mille promesse e poi sparisce. Ma lei nel frattempo rimane incinta e si ritrova con un figlio piccolo da crescere da sola, senza soldi e senza un posto dove stare. Ike, come un fratello maggiore, li accoglie in casa sua e scrittura ogni sera Anna per aiutarla economicamente. Tra i due, giorno dopo giorno, cresce la tenerezza. La simbiosi tra lui, sfrontato sul palco e dolcissimo nella vita, e lei, giovane e bisognosa d'amore, diventa totale. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel sud degli Stati Uniti, a cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Anna May Bullock, una giovane e avvenente ragazza originaria del Tennessee, si è accorta fin da quando cantava nel coro della chiesa di avere una voce intensa e unica. E non ci ha messo molto a convincere di questo Ike Turner, il leader dei Kings of Rhythm, che non appena l'ha sentita accennare le prime strofe di B.B. King, l'ha voluta nel gruppo. Adesso stanno girando i club per portare in giro la loro musica e concerto dopo concerto Ike e Anna si innamorano perdutamente. Dopo il nostro primo bacio, avevamo paura di dirlo agli altri. La band stava cominciando ad avere successo e avevamo paura che la nostra storia potesse rompere gli equilibri. Ma invece poi abbiamo trovato il coraggio. L'amore è stato più forte e gli altri hanno capito. Ike e Anna sono sempre più uniti nella vita e nel lavoro. Ike cambia il nome ad Anna, che diventa Tina e prende il cognome del compagno, Turner. Il duo Ike e Tina Turner Revue registra Little Ann nel 58 e nel 60 Fall in Love, che entra nei primi 30 brani della classifica statunitense. Ispirandosi a Ray Charles, Ike chiama un trio di ragazze, soprannominate le I-Cats, a fare coro e coreografia a lui e a Tina. Tutto quello che ha sempre sognato, grazie a questa ragazza dalla voce rock, sta prendendo vita. Quando decidono che è arrivato il momento di sposarsi, scappano a Tijuana, lungo la frontiera messicana, quella città della perdizione che per Manu Chao fa rima con tequila, sesso e marijuana. I due corrono mano nella mano davanti all'altare, eccitati e felici, ma il matrimonio viene invalidato perché Ike non riesce a ottenere il divorzio dalla prima moglie. Ma Tina non è una donna che bada alla burocrazia, non le serve un documento per attestare l'amore di Ike, è soltanto una formalità che può tranquillamente aspettare. Ero pazza di Ike. Era un amore totalizzante, direi simbiotico, perché facevamo insieme ogni cosa. E lui continuava a ringraziarmi, a dire che ero la sua musa e che senza di me non ce l'avrebbe mai fatta. È davvero così. Ike e Tina Turner diventano la coppia più esplosiva del rock. Alla fine degli anni 60, quando vengono chiamati ad aprire il concerto dei Rolling Stones, scoppia la moda afro portata sul palcoscenico proprio da loro. Ogni singolo che fanno uscire balza al primo posto delle classifiche internazionali e nel 1971 conquistano un Grammy come migliore performance R&B. Mentre lui fonda una casa discografica e scrive una canzone dopo l'altra, lei, con il suo modo di stare sul palco, diventa poco a poco la star. Quando li invitano ai programmi TV è perché vogliono lei, Tina, così come quando li intervistano. Sebbene Ike sia la mente e il suono, l'appeal di Tina, già in tempi in cui il marketing non contava certamente come adesso, fa tutto il resto. Ike, fragile e in fondo frustrato per non avercela fatta da solo con le sue forze, comincia a sentirsi messo da parte. Si rende conto di essere stato ancora una volta un ottimo talent scout, capace di intuire il talento ben prima degli altri, ma di non essere riuscito neanche adesso a salvare se stesso. Ce l'aveva con me. Non lo ammetteva apertamente, ma provava un rancore indescrivibile nei miei confronti. Lui è diventato famoso quando io ho iniziato a cantare nella band e ha cominciato a essere geloso, a provare un senso di inferiorità, non so. Ike, di indole piuttosto stravagante e dal carattere irruento, ha la consapevolezza che senza Tina non ce l'avrebbe mai fatta e accumula così tanto rancore nei suoi confronti che comincia a diventare violento. Sempre più spesso torna a casa ubriaco e fatto di droghe di ogni tipo. Tina lo sa. A volte gli dice di smettere con le buone, cercando di comprendere il suo malessere. Altre volte gli urla in faccia che non lo vuole più vedere, con tutta la profondità di quella voce che ben conosciamo. Lui la insulta e alza le mani. Le botte diventano la norma in quel salotto dove una volta l'amore si respirava nell'aria. Non ce la facevo più. Non potevo più andare avanti così. Non potevo continuare a chiedere scusa per il mio successo. Mi meritavo tutto quello che avevo e adesso sentivo che non lo avrei più sopportato. Per la prima volta sentivo che avrei potuto cavarmela da sola. Nel 1976, il distacco definitivo. Tina esausta lascia Ike. Non vuole tenersi più niente di lui, se non il nome. Racconterà i momenti terribili che ha dovuto sopportare anni dopo, nella sua autobiografia, alla quale si è ispirato il film What Does Love Have to Do With It? Cosa c'entra l'amore con tutto questo? Ike ne esce malissimo, nega gran parte di quello che si vede e cerca di difendersi con la sua autobiografia di risposta, Taking Back My Name, riprendermi il mio nome. Entrambi, dopo la separazione, hanno un momento buio. Ma se Ike, con il quale il destino non è mai stato benevolo, chiude definitivamente il suo momento di gloria, finendo nel dimenticatoio, Tina lentamente si riprende dall'enorme dolore, salda i suoi debiti e rinasce. A volte bisogna toccare il fondo per risalire. Io avrei fatto di tutto per Ike. Gli sarei stata sempre accanto, ma lui non me lo ha permesso. Mi ha portato all'esasperazione e non sono più riuscita a perdonarlo. Nel 1979 Tina incontra Roger Davis, un giovane manager australiano che la porta con sé a Los Angeles e la trasforma in una delle più grandi voci musicali di tutti i tempi. I singoli What's Love Got to Do With It e We Don't Need Another Hero, ma soprattutto l'album Private Dancer, che vende 11 milioni di copie, la lanciano come star internazionale. Mentre Ike entra ed esce dal carcere per droga e possesso di armi e tenta disperatamente di rifare lo stesso percorso fatto con Tina con la sua nuova moglie, Tina è nel momento più importante della sua carriera. Duetta con Mick Jagger in Live Aid, uno dei più grandi eventi musicali della storia. Si esibisce ai concerti epici in luoghi suggestivi come lo stadio Maracanã di Rio de Janeiro. E duetta con grandi cantanti come Bryan Adams, Rod Stewart, Elton John, David Bowie, Eric Clapton. Ike muore nel 2007 all'età di 76 anni, con poche soddisfazioni e tanti amari ricordi. Tina va al funerale, più per educazione che per affetto, anche se non lo vede da 30 anni. Tra le panche della chiesa, qualcuno dà una leggera gomitata al vicino e commenta: lei, l'emblema dell'energia, ora è una settantenne con un corpo da ragazza. E come ogni ragazza, guarda avanti, certa che il destino per lei ha ancora in serbo molte sorprese. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.